Battisio! Attenzione, signor Battisio! Signor Battisio! Signor Battisio, buonasera! Signor Battisio! Quello che l'ascolto! Ella che ti ascolto! Ma sarà soldo che su Marchino o no? No, non me lo ascolti! Io ti ascolto bene, adesso sei uscito con il fischio dietro! Ho due apparati accesi, aspetta che provo l'altro, a vedere! Io lo ascolto! Eia, eia! Ma chi? C'è anche Marino, è entrato anche Marino! Come senti, Otto? Sempre come ti sento sempre! Comente? Ma dove ando, sai? Io non sento, Marchisio! Marino! Adesso ti ascolto bene, signor Marchisio, buonasera! Buonasera, Marino! Ero spostato di frequenza! Adesso va benissimo, ottimo! Avanti to! Amore! Eia! Cosa c'è, signor Marino? Buonasera! Buonasera a lei, la stavo chiamando! Pensavo che stava guardando la televisione! E giù! A Londra, avanti, signor Bacchisio! Vabbè! Quale sta utilizzando, Bacchi? Il piccolino! Va benissimo, ho avuto una modulazione, va bene! Se non mi ascolta, non mi risponde! Io ti ascolto bene. Anche io. Chielino. Non c'è quello. Marino, poco fa quando sei entrato eri a 9. Ti sei stato a fondo scala. Lo so, perché quando ero a 9 stavo utilizzando quello tipo con il ciabacchisio, con quello che mi ha fatto lui sul tetto, con l'angelino. Adesso usando il mio. Così è. Andave. Andemmo per andemmo. Chiatta. Riprenda, signor Bacchi. Io riprendo, caspita. Stiamo caricando questa, stavo andando a mangiare. Quanto ti dura la carica, Marie? Allora io l'ho caricato una volta e ce l'ho ancora, guarda, io ne ho uno in macchina e uno ce l'ho qua. È sempre acceso. No. Io non so se è carico, se è scarico, non c'è. È cieco. Ma è carica batteria, a me mi segnava sempre verde, io l'ho lasciato una notte, l'ho messo la sera, la mattina alle 3:30 l'ho tolto e poi ancora è attaccato. Sto usando quello lì tu adesso? È sempre quello lì, è sempre la prima carica l'ho fatto, non ho più caricato, hai capito? Capito. Vanno bene i giocattoli. Vanno bene, sì. Signor Tore, avanti, ne? Eia, Ellu. Io fa vedere un po' da lì, tu dai. Che cosa ti devo dire? Cosa hai fatto, cosa hai mangiato, cosa hai camminato in bicicletta, sei andato a pescare, cosa hai fatto, boh, cosa è so? L'antenna tua scritta è, Mari. L'antenna all'interno scritta è. Ma nel piccolino stai dicendo? Nel gommino. Adesso ce l'ho in macchina, sinceramente. Aspetta, vedo se è segnata. Aspetta, eh. È scritta, ma non c'ho chiari, ma chi? Già è scritta, se non c'ho chiari. Ma c'è scritto UHF 480 MHz. E non c'ho chiari adesso, ma chi? Vedo che è scritta, ma non c'ho chiari. Qual è la tua scritta, Nella mia? Mia. Aspetta, ma quale? Quella nera? La nera piccolina, quella l'originale. Aspetta un attimo. Ma chi è, so, ecco. Quando tu guardi sotto, non è gomito nero, guardi sotto, dove c'è proprio l'attacco delle cose. VHF, da 400... a 480 MHz. Via, così è. Così è, da 400 a 480. Sì, UHF 400 a 480 MHz. Stiamo dicendo, radio non ne hanno, radio normale, nulla. Sì, prima c'era, è stato tolto, ma chi? Perché me l'ha detto quando non era, c'era anche la radio era la pila, è stato tolto. E chi l'ha tolto? E si toglie quando metti questi canali qua, capito? E va in normale la radio. No, mi serviva la radio. Capito? Cazzo, non mi stavo chiamando. Sempre parlando solo. Sta facendo già, dove? Facendo ma chi? Sì, tu Domito sì. Sta facendo ciò. Tu sei Domito. Sta facendo il fuoco. Ciao Mari! Domito, Luca, buonasera. Buonasera Luca, buonasera. No, sono appena rientrato, dai, sono usciti presto a fare delle commissioni. Ho fatto la passeggiata e siamo un po' rientrati adesso. Ehi, va tu, hai compreso Gio Maria Ghiccio? Ma, Bacchi? Piatore. Dormito era, hai compreso? Se la riprenda. Ehi, dormito era, vediamo un po' Marino se l'ascolta. Marino, Marino, ascolti Luca? Marino affuso, Tore. Sicuro? Comunque ti stavo dicendo, quello nero è BF777S. La sigla? Eia. Questo qua è 88. Sì, quello dopo di questo è. Lo usaccio. Ma la frequenza è sempre quella per 88, è sempre quella lì, la portata è sempre quella. E io gli ho messo un antennino più lungo, come quello originale di quell'altro che c'ho. È lunga con l'antenna. E riceve più bene? Sembra di sì. Sembra. Va bene, e se non gli mettiamo un filo da stendere, è più lungo. Avanti Luca! Eia, eia, stavo prendendo i piccitti che stavo leggendo su Facebook. Vabbè, ma lo mangiate oggi? No, noi oggi siamo a digiuno. Andate. Ancora un quarto di cielo d'ora, 10 minuti, un quarto d'ora stiamo andando a mangiare. Come sei a digiuno? Io ho messo a canale 5, to. No, Rai 3 adesso. Vai canale 5, Vololis. No, no, io canale 3 adesso. C'è il telegiornale regionale. Ah, ecco. Vediamo Marino, sta guardando. Marino. Sono entrato adesso e non su, mi ha chiamato mia moglie. Dimmi, ma chi? Cosa sto guardando? Il dottore sta guardando Rai 3, con l'altro sta guardando, io sto guardando canale 5, il volume. E Marino lo sta guardando? Io mi sto guardando nuda. Io mi sono confusato. Già lo sai, sono usato gli osso. Mi ho memorizzato tutto quello là, mi bacchi, sullo scanner. Tutte quante me lo segnate. Quel pezzo di carta che ho trovato io. E quel foglio di là, sì, me lo tutte segnatemelo. Ah, ma che segnato. No, segnatelo. Memorizzate nello scanner. E il foglio l'ho messo nel cassetto dove c'ho l'altra roba. Poi ho attaccato quella lampadina, già va bene. Allora, adesso vediamo se dura un pochino, così le dico a Antonio di fastidare altre tre, di prendere altre 3-4 e mettere di scorta, intanto non ce ne so più in giro. Se si brucia così facilmente conviene tenere di scorta, capito? Ma poi c'è anche un altro foglio, ho dimenticato di darti la fotocopia. Ci sono i numeri in inglese. Vabbè, quando ci vediamo, dai. E la seconda cosa, ne avevo due o tre conservate, no? Le avevo cambiate e le altre due non riesco a trovare, chissà dove diavolo ce l'ho messe. E mi si è fulminato l'altro giorno, ha fatto adesso qualche lampo, qualche colpo, cosa, mi si è fulminato, capito? Poi sono andato, ho girato 3-4 negozi, la Elco, l'altro di fronte alla Sif, non ne ha nessuno, ormai è tutto a LED, quello lì ormai non ne stanno più facendo, magari c'era qualcuno in magazzino, qualcuno, boh. Adesso l'ho attaccata, va benissimo, adesso domani Antonio mi trattò, portami, ho visto che già è acceso. Siccome è più basso come voltaggio di quello del mio, no? Anche lui mi ha detto prova, vediamo quanti giorni fa, se si fulmina prima vuol dire aumentiamo il voltaggio, se no lasciamo questo qua, intanto deve solo lampeggiare, capito? La luce più scarsa ti fa, perché la lampada è più grande, meno luminosità. Ehi vabbè, ma chi non mi interessa, l'ho usato, te sai se è vera, quando apriamo questo primo cancello, adesso vediamo. Avevo preso una lampada LED messa al cancello quando mi fermavo la macchina, si accendeva pure passa l'uomo, boh, a Natale l'ho preso, a Natale, già fulminata. Adesso ho trovato, c'avevo la scatola sua con lo scontrino e c'è scritto 2 anni di garanzia, adesso domani appena arriva me la smonto, io lo porto al bricco. Pagate 18 euro, l'ho pagato. Se portarlo, in garanzia se deve cambiare. C'è in garanzia. Che poi bisogna vedere queste garanzie come le danno. Adesso qua nella scatola ci sono 2 anni di garanzia. Meno male che io avevo visto di lasciare la scatola insieme allo scontrino all'interno. Boh, assai durato, via da andare e già fulminato. Non ho capito. Avanti, signor Astore. Te lo fai già e te lo fai da con la lampada a LED, te lo fai da. LED era questo qua, è un LED, è un faretto a LED, me l'ho messo nel pilastro del cancello, così magari quando passa l'uomo o passa a piedi o in macchina si accendeva, il tempo di entrare e poi si staccava automatico, capito? Mi è comodo perché la mattina quando esco mi si accende e poi è comodo per tutto, diciamo, è a LED, no, ho capito perché mi si, boh. È che si è stato collegato domani, no? Eh? Perché c'hanno dei fili che devono andare giusti miei, se no che dura a bocco durano, è compreso. Occhio che io la mano ci abbia che cosa. So, guarda, io ho fatto un corso accelerato al quinto piano elettricista, dunque no, c'è poco da collegare, e beh, solo 2 fili c'erano, 8, solo 2 fili. Ecco, l'ho collegato al coso giusto dove doveva essere collegato, no? Si è funzionato fino a una chetta fa, ha funzionato. Scusa. Funzionava, poi piano piano lo volevo più lento, capito? Più meno luce, adesso proprio a zero, figurati. Allora si è fulminata la cosa, c'è una specie di relè dentro, è compreso, si è fulminato chi su. Adesso domani, 2 minuti, lo stacco e glielo porto, c'ho lo scontrino e la scatola c'ho. Sì, staccalo e glielo porti. Ah, aspetta che verrà pure Luca. Luca! Ehi, hai avuto ascoltato, ciao Marino! Buonasera signor Luca, tutto a posto, sì? Tutto a posto, niente d'ordine. Ma si è portato Luca? Luca! Eia, dimmi! Aspetta Mari, Graziano come sta? Hai sentito qualcosa? Io ho sentito un altro messaggio, domenica mi ha risposto, era così così. Poi è andato Gio Maria insieme a Luca. Mi ha detto l'ha visto così così, ha detto che stava mangiando domenica e così via. Ha detto l'ha gabbato quei 3 giorni di coso di influenza, l'ha gabbato, l'ho preso là. Poi con tutte quelle medicine che prende. Siamo bene, adesso domani, adesso è stato chiamato, domani lo chiamo nuovamente. Vediamo se mi risponde, oppure se risponde la moglie, non lo so. Avanti. Sì, stava parlando Luca, comunque non ce l'hai fatta a passarlo a Luca. Ma ha detto Luca che sta bene, sta facendo delle visite. Ok Mari, meglio così, là sto contento, là speriamo che esca presto, e già lo sai quando sei all'ospedale, per carità, meglio nulla. Avanti signor Bacchisio. Ehi, tutto così. E lo scontrino ce l'hai però Marino, se non c'è lo scontrino non te ne cambia, Sì che ce l'ho dentro la scatola. C'ho lo scontrino, c'ho anche la coppia del coso, del banco, ma l'ho legato assieme, l'ho lasciato nella scatola, l'ho anche controllato, anche poc'anzi l'ho controllato. Domani quando arrivo al tabacco la smonto, è probabile dopo pranzo mi avvicino io e me la faccio cambiare se ce l'hanno. Ti conviene smontarla e portarla dentro la scatola, non funziona, ti fa fermare e la cambi. Sì, per forza no. Vediamo. Se è durato, l'ho presa verso il 6-7 dicembre, l'ho presa, figurati. Avanti Luca. Ma non mi senti Mari? Come? Ho detto non mi senti, o mi senti? Sì che ti sento, c'ho leggermente con un po' di QRM ti porta a presa, comunque la modulazione è chiarissima, avanti. Vabbè niente, poco fa stavo parlando ma forse non mi sentivi. perché stavo parlando con Tore e poi ti sentivi più sotto. Adesso mi hai bombardato, adesso mi hai proprio... sei arrivato sotto da fondo scala. Già ti sento bene, Luca, ti sento bene. Avanti, Tò. Sì, anda bene, anda. Certo. Anda bene. Signor Bacchisi, e allora? Allora, fino adesso sono 60 minuti. Da qui in poi non so se fa 61 o poi 58. Chiediamo a Marino o a Luca. Luca, dillo tu a Tore, quanto è adesso? Che cosa? Aspetta, dice, e allora hai 60 minuti, può essere anche 61 oppure 59. Ah, per me è 38. Capito, hai detto, si è accorciato ancora di più da Luca. Non si può ragionare con voi, no? Tore addormentato, Paraciuti, io. Tu pensi alla guerra, pensi? Allora, se vai alla televisione, che notizie stai guardando? Canale 3, Rai 3, il TG regionale. Radio Pompa, lo prendi. Sta dicendo tutto quello di tra Sassari, Sardegna e Cantuvinne. Ah, benissimo, domani nevica, sta dicendo, no? Sì, mi sei appoggiù, vabbè, domani. Mi ha manco in fondo della strada e lei c'è un po' di viaggio, lo manco, dai. Ciao, cucciummi. Ciao, Antone. Ribigliandina. Ciao, Salvatore, ciao, Marino. Non so chi ci sia. C'è siamo Bacchisio, Luca e tu. E io sono da Bacchisio, sei lui Scuccio. Sono Bacchisio, Scucci a Ciucca Ciucca. Bacchisio. Di nulla. Sono Scucci a Ciucca Ciucca. Bacchisio. Ma lui mi ascolta a me. Certo che ti ascolta. Antonè, tu ascolti il signor Bacchisio, sì. Ma non ascolti Bacchia, Antonello. No, zero, riporto zero, non si accende neanche il led, nulla. Ma lui si sente benissimo, Ah, qua va bene, proprio mi ascolti a me. Metti lo squelcio a zero e vedrai che lo senti. Ciao, ci sentiamo, ciao. Pomponio, mi ascolti a me. Ciao Giulio, ciao. Che era Giulio, era? Ciao Giulio. Ma Giulio Dollaro era quello, Giulio. Ehi, era Dollaro, sì. Attento, siamo da Chisio. Ehi, ehi, Antonella adesso ha acceso l'altro col gommino e lo sento, e quello là nulla. Adesso ti ho sentito male, da chi? Un po' di QRM. Adesso col gommino, Marino, col gommino, ho sentito Antonello. Antonello, mi ascolti adesso? Lo so, sei col gommino, solo già lo sai. Appena ti sposti, non ti sentiamo. Avanti, Tore. Sì, lo so, aspetta. Antonello, sì. Ascolti a Bacchisio con il gommino, Io lo sento, ma lui lo sente a me, bello è quello. Una volta, lontana esterna, mi sentiva benissimo. È già da due giorni che non lo sento, che lui non sente a me, è strano. Io sento a tutti. E con questo ti ascolto, con l'altro no. Capito, Antonello? Vuol dire che è il PMR con lo squelcio troppo alto. Apri lo squelcio, Bacchisio, se vuoi sentire ad Antonello. Ciao! L'intenna rotta. Giulio, no, questo non c'è squelci, non ne ha. Se arriva vuol dire che l'antenna non è rotta. Se Antonello lo sente vuol dire che l'antenna non è rotta. È lo squelci dell'apparecchietto che è chiuso, vuole aperto lo squelci. Si regola nel PMR. C'è solo il tasto dei canali e del volume, non c'è altro. Dal menù, Bacchi, dal menù! Ciao Vittù, cazzo di Monero. Allora, sono tutti con questi apparecchi cosoli cinesi e poi annaspano. Ciao a tutti! Ciao Vittù, io ne approfitto a questo passaggio, vai. Ciao Vittorio, ben entrato, ciao Luca, ciao Antonello, Bacchisio, Tore e Giulio. Guardati per me, a domani, riprendi Giulio, ciao. No, sto guardando la televisione, ciao a tutti, dai, chiudo anch'io, ciao, riprendete voi. A domani, ciao a tutti. Ciao Giulio, ciao Marì, ci sentiamo domani. Ah no, c'è Vittorio, chi c'è rimasto qui nel canale, avanti. Ehi, sono da Vittorio. Ciao Vittorio, buona serata. E io ne approfitto, ma lì, del micro per passare in QMT, causa medicinali. Bene, salutissimi a tutti, con la buona serata ancora. Partizio vi saluta, va in QMT. Riprende Vittorio. Allora senti a Bacchisio. Così sono, ho messo a caricare queste cose che era un po' di tempo, non le mettevo a caricare, ne ho caricato 4 adesso, uno evidente non l'avevo spento e vi ho sentito, ma sono in macchina, sono dentro la macchina, per cui lo sento a piccinino, a te ti sento bene, mentre a Bacchisio sento piccinino. Ah, è Vittorio. Porca! Io sto chiudendo che è venuta gente. Ci sentiamo domani se tutto coincide. Ciao Antone, ciao Bacchise, ciao Marino, ciao Vittorio, ciao a tutti. A domani. Ciao Otto, ciao, buonanotte, ciao. Ciao Otto, buonanotte. Vitto, preoccupato, non sono uscito il raio. E adesso? Avanti. Ti stava salutando Luca nel monte. No, e saranno ossidati, cose. Li sto usando molto poco, prima li usavo più spesso. Ci sarà il coso qui del microfono, il tastino ossidato. Senz'altro, magari il tastino. Vabbè, a me senti bene perché c'ho quella specie di canna fumaria agganciata che si è bloccata. Punta a Tabba di Urba, la cazzo c'è molto meglio di puntare alla Monte Orbu. Non capire il perché. Passano in questi giorni stacco col motore che mi aveva regalato la buona anima di Prospero. Se riesco a saldarlo è bene, se no sono andato in culo. Di un lampo, perché la meccanica funziona bene. Che ti ho detto come buon'anima? Buon'anima si caspita. È vero, c'è. Cioè... Allora. Avevo telefonato al figlio un giorno. Anzi, no, per fargli come si chiama, che era morto, dopo 2 mesi avevo telefonato, ma ha detto non è che ti sto facendo, si aveva lampato tutto, dice si è buttato tutto io, mi ha detto, che non potevi avvisare, meglio detto, e c'era della roba, ha detto che era buttata da una parte, gli ho detto baracchi vecchi, cosa del genere, almeno l'ho avvisato per pezzi. E tutti hanno fatto così, cosa ha chiuso, stava lo stesso, ha chiuso e hanno buttato via strumenti, cose, perché sennò, macello, col discorso della partita IVA ti cercano fino all'ultima molletta o fai il foglio di rottamazione o... e quindi sono costretti a buttare tutto. Ah, per quello è che, quindi ci guadagna Tavoni e cose, Marcello. E allora? Tutte le cose che ha in carica, che ha in carico, devi fare il foglio di rottamazione e buttare via, dai banchi ai mobili agli strumenti, tutto. E se no devi fare il foglio di vendita, le ho vendute ad Alessio anche per 1 euro, ci deve essere il foglio, capito? Beh, è inculata, ragazzi, a tre legge di merda, ragazzi, se uno per dire c'ha delle cose di clienti che non ritirano più, deve fare il foglio di... per forza, cazzo, di reso, in pratica sarebbe. E per rispettare le regole così, tu mi porti un apparecchio a riparare, io c'ho roba da 10 anni, fermali. E per essere normale legge ti devo mandare una raccomandata ricevuta con ritorno. Dopo la prima lettera, se entro 90 giorni non rispondi, te ne devo mandare un'altra. Poi alla terza lettera sono praticamente 3 mesi. Dopo 9 mesi, se non te lo ritiri, posso disfarmene. Però ci devono essere queste 3 raccomandate. Sì, figurati, altre cose. Bubu. È fatto in maniera che uno non faccia lo schermo, se ne approfitti, perché c'è gente che gli porti l'apparecchio e già il mese dopo ti dice che non gliene hai portato e se lo vende a pezzi o se lo vende intero. Quindi per mettere a freno hanno messo tutti questi trabocchetti. Sì, vabbè, ma lo sai che c'è sempre il cliente furbo, ti porta l'apparecchio, ti dice fammi il preventivo, sono di spari 8, quindi dopo una settimana dico magari mezzo manco va, cioè, per dire città mercato, se lo compra nuovo e non si fa più vedere, e quindi cazzo, a un certo punto rimane come un imbecille, non sai cosa fare. Cioè infatti cazzo, tu lo ripari, magari pensando che allora si ragionava così, che lui lo ritirasse, e dopodiché ti trovi in groppa quell'apparecchio. Che pratica c'hai, magari dopo per dire 6 mesi, 7 mesi quell'apparecchio non vale più niente, e cosa fai? Ti dice una pena mondetta. Sì, purtroppo è così. Ma buona, sto scendendo un attimo, li metterò, prendo tra 5 minuti. Ciao! E d'accordo, ciao, a dopo. Vate Luca, Luca è parito.